l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta oggi in una puntata speciale dal Festival di Internazionale Ferrara, nella nostra postazione Chiostro di San Paolo. Ci siamo così infilati, abbiamo fatto una sorta di incursione, abbiamo aperto una parentesi nella rassegna stampa internazionale che viene fatta quotidianamente qui all'interno del Festival, ma non solo, parleremo di Europa, lo faremo un po' con il nostro taglio, che è quello di cercare di fare cultura europea e respirarla questa Europa. E un saluto al pubblico, grazie per essere qua presenti, eccoli qua, e un grazie soprattutto ai nostri ospiti, ve li presento immediatamente, poi gli altri si aggiungeranno. Intanto Giampaolo Accardo, condirettore di Press Europe, che curerà la rassegna. Ciao Giampaolo. Ciao Federico. E Michael Brown, tedesco italiano, italiano tedesco, Michael? Ma europeo. Europeo, che bello, ok. Del quotidiano Tag. John Foote, storico britannico. Ciao John. E esperto, espertissimo di sport italiano e non solo. Poi il benvenuto a Angel Beremlischi della Commissione Europea. Ciao Angel. Ciao, ufficio buongiorno. Stampa della rappresentanza. E Mariana Mazzucato, docente di economia e di politiche scientifiche ed economiche all'Università del Sussex in Gran Bretagna. Buongiorno. Buongiorno, ciao. E Angel, prima di entrare nella rassegna stampa, prima di entrare nella quotidianità di oggi, c'è una domanda che subito ti voglio porre, perché ci siamo allarmati, ci stiamo allarmando, è un po' il tema che sta correndo, soprattutto per chi è sensibile all'argomento, che sta correndo in rete in queste ore. L'Erasmus verrà tagliato, è vero? No. Assolutamente no, non verrà tagliato. Ovviamente c'è una situazione di insufficienza di liquidità nel bilancio del 2012. Questa tra l'altro era una situazione che non ha sorpreso nessuno, perché già nel novembre del 2011, quando il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, che votano il bilancio annuale dell'Unione Europea, hanno votato a ribasso quello che era la proposta della Commissione Europea, riducendolo appunto, e la Commissione Europea aveva acceso già allora la lampadina, la spia, dicendo che potrebbero esserci delle insufficienze. Questo succede purtroppo, perché nell'arco dell'anno, soprattutto verso la fine di un esercizio finanziario, ci sono molte richieste di finanziamento. La Commissione con l'autorità di bilancio, ovvero il Consiglio e il Parlamento, stanno lavorandoci, si sono già incontrati e si stanno incontrando sempre più spesso. La Commissione sta lavorando su due linee. La prima è quella, il cosiddetto global transfer, ovvero quello di, ed è più facile e più rapido, quello di trasferire fondi non utilizzati per le necessità di spesa di questi programmi, soprattutto i programmi con i giovani, perché appunto i programmi per i giovani sono la cosa più importante. Ci sarà anche entro la fine del mese anche una proposta emendativa del bilancio che dovrà essere approvata per assicurare, ecco, appunto, che questi programmi continuino. Ovviamente gli Stati membri devono anche capire che appunto queste sono le cose più importanti. Noi stiamo parlando di crescita, siamo in una fase di crisi. Puntare sulla ricerca, sui giovani e sulla mobilità è la cosa più importante, il messaggio più importante da dare. C'è consapevolezza che sarebbe un autogol clamoroso? Assolutamente sì. Perfetto, speriamo sia sufficiente. E di questa consapevolezza, di questo autogol, si parla anche in Press Europe. C'è proprio un editoriale del tuo collega Giampaolo, proprio un appello al progetto Erasmus come una delle colonne portanti di questa Europa. Giampaolo, ricordiamo intanto al volo cos'è Press Europe e poi accompagnaci, iniziamo un assaggio di rassegna stampa. Sì, Press Europe è un sito di attualità europea in 10 lingue che propone, un po' come fa Internazionale, il meglio della stampa europea sull'attualità europea. Gli articoli sono riprodotti e tradotti in 10 lingue, fra le quali troviamo il ceco, il romeno, il portoghese, lo spagnolo e l'inglese, ed esiste ormai da 4 anni e sta andando abbastanza bene. Siamo basati a Parigi e abbiamo una redazione un po' sparpagliata in altri paesi europei. Perfetto, vi consiglio, sicuramente lo conoscerete, però è sicuramente un tuffo quotidiano bello, ed è bello anche scoprire il dietro le quinte. Ti capita di telefonare ad Accardo e ti dice: per favore chiamami tra mezz'ora che sto cercando di tradurre. L'ultimo cos'era, in sloveno? Era una cosa slovena, non, sì. Non ne uscivi, però eri stato ostico. Era più complicato l'argomento che il titolo del giornale, devo dire. Vai, accompagnaci un po' nelle prime pagine di oggi. Sì, oggi volevo cominciare con l'International Herald Tribune, che è forse il quotidiano globale per eccellenza, l'edizione quindi internazionale del New York Times, che ha oggi in prima pagina quella che chiama la spina nel fianco della Spagna, ed è probabilmente il personaggio cruciale in questo momento in Europa. Si tratta di Artur Mas. Artur Mas è il governatore della Catalogna, che in questo momento sta avendo un braccio di ferro, ingaggiato un braccio di ferro con il governo centrale di Madrid, di Mariano Rajoy, perché Rajoy deve assolutamente tagliare nel budget dello Stato, nel bilancio dello Stato, per rientrare nei famosi parametri dell'euro, e l'1,5% del deficit della Spagna è prodotto dalla Catalogna, che è la regione più ricca ma anche la più indebitata, e quindi Rajoy ha chiesto a Mas di tagliare molto nel budget della sua regione, ma Mas non ne vuole sapere e anzi ha detto: sai che c'è, se continui noi dichiariamo, facciamo un referendum per l'autodeterminazione, dichiariamo l'indipendenza e ce ne andiamo, e quindi è in corso questo braccio di ferro. E un braccio di ferro che ormai è sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli da settimane. Ora possiamo vedere il prossimo. Valeria, El Mundo, un quotidiano conservatore spagnolo, che come vedete a sinistra titola su Duran, che è uno dei partner della coalizione di governo in Catalogna, che paragona la Catalogna con Cuba, che la Spagna perdette nel 1898 durante la guerra, perché ci fu una tensione appunto anche per ragioni fiscali. Passiamo alla copertina successiva, il Correo, un altro quotidiano spagnolo ma basco, che invece titola sull'Eurogruppo che allontana, dice, in un certo senso, il fantasma di un salvataggio imminente della Spagna. Infatti un'altra cosa di cui si parla da giorni in Europa è: chiederà o non chiederà il salvataggio la Spagna, l'aiuto dell'Europa per salvare la sua economia? L'Eurogruppo, quindi i ministri delle finanze dell'Unione Europea che si è riunito ieri, ha deciso che non è ancora urgentissimo, e quindi di allevare le pressioni sulla Spagna. Se abbiamo tempo, sì, passerei a un altro paese che è al centro della crisi, la Grecia, con il quotidiano economico I Katimerini, il quotidiano Katimerini che titola sull'imminente visita di Angela Merkel in Grecia. Infatti Angela Merkel, che è diciamo identificata come la persona che può risolvere la crisi greca, o se non la crisi dell'euro, si recherà in Grecia martedì per delle discussioni che dovrebbero vertere su una forma di ammorbidimento delle condizioni imposte alla Grecia per ritornare all'equilibrio. L'unico che ha fatto una smorfia su Angela Merkel è stato Michael Brown. Come mai? Che siamo in radio, accidenti, non abbiamo potuto vedere questa tua espressione. Hai sorriso, no, sulla Spagna e sulla Grecia. Ho detto: ecco qua il tedesco che guarda con distacco quelli che sono in crisi. E invece... No, ammirato il coraggio della Merkel, devo dire. C'ha un bel coraggio andare in Grecia, perché se il paese sta dove sta, le responsabilità della Germania al governo tedesco sono molto alte, nulla togliendo alle responsabilità greche, ma se ricordiamo, quella crisi iniziò nella primavera del 2010, e con un'Europa che si muoveva più velocemente su garanzie verso i mercati internazionali. Molto di questa crisi, che poi è diventata crisi spagnola, crisi portoghese, crisi italiana, con un meno 2,4% di PIL quest'anno, molto ma molto di questa crisi si poteva evitare, e lì le responsabilità della Merkel e del suo governo sono veramente forti. Eccoci qua ancora in diretta dal Festival di Internazionale Ferrara Chiostro di San Paolo, la rassegna stampa e non solo. John Foot, durante le informazioni del traffico mi stavi dicendo questa cosa dei nazionalismi, della voglia di... si parla di Europa e poi si parla di tante piccole micro fughe. Sì, è interessante che c'è una frammentazione in Europa adesso, anche in Belgio. In Scozia ci sarà un referendum fra poco, proprio sulla separazione di Scozia con con il Regno Unito, che diventerebbe un paese separato se vincesse questo referendum. Quindi ci sono tutti questi movimenti in serie di paesi, che è un po' il prodotto anche della crisi. Potrebbe essere un'Europa di un doppio di paesi che adesso, fra 10-20 anni, secondo me. John, visto che hai preso la parola, colgo l'occasione anche per... Tu ieri hai partecipato insieme anche a Michele a questo incontro sulle uscite d'emergenza, soprattutto per l'Italia. Ne avete individuate? Ma non eravamo tutti d'accordo su questa cosa. Credo che tutti, una cosa molto interessante è che a un certo punto i conduttori del dibattito hanno detto: oggi per la prima volta in 15 anni non abbiamo molto parlato di Berlusconi. Cioè, c'era un senso di un certo senso di, anche nella crisi, nell'emergenza, di liberazione da questo incubo, e quindi potevamo parlare di economia, di politica, di sinistra, di destra, senza sempre parlare di Berlusconi. Quindi siamo in un'altra fase, una fase gravissima dell'economia italiana, spagnola, irlandese, portoghese, inglese e così via, però una fase magari di normalità in un certo senso, dove la destra è più presentabile, come diceva Michele, e quindi c'è una lotta politica che è abbastanza normale, anche in una situazione stranissima di un governo puro, tecnico, non eletto da nessuno. Angel, ieri abbiamo fatto un incontro con i ragazzi in un liceo per parlare di Europa, ed è venuto fuori questo aspetto interessante, nel senso, non si può parlare di Europa senza parlare di crisi. Questo è, cioè, l'abbiamo già pronunciato la parola crisi non so quante volte dall'inizio della puntata, però non si è mai parlato così tanto di Europa da quando c'è la crisi. Cioè, in chiave promozionale per l'Europa, la crisi è stata un'ottima opzione di marketing. È un paradosso, però è così. Cioè, noi avvertiamo il bisogno veramente di confrontarci con la dimensione europea quando c'è una dimensione critica, una dimensione di difficoltà, e questa dimensione di difficoltà, ovviamente riguardando tutti i paesi senza eccezione alcuna, ha fatto sì che emergesse di nuovo una necessità di fare riferimento all'Europa, e la crisi è stata l'ennesima conferma che quando c'è bisogno di trovare una soluzione, poi alla fine si va ad appellare inevitabilmente all'Europa. Facciamo un altro piccolo viaggio in Europa con Giampaolo Accardo e le prime pagine dei quotidiani di oggi. Sì, allora andiamo adesso in Austria con Die Presse. Austria, paese cattolico, quindi non c'è da stupirsi che dedichi la sua copertina oggi, la sua prima pagina oggi a un evento che riguarda la religione, e parla della battaglia non santa, se possiamo chiamarla così. E la foto che vedete, che i nostri ascoltatori purtroppo non vedono, mostra molti cardinali in piazza San Pietro. Questa foto è di 50 anni fa, scusate, quando si aprì il Concilio Vaticano II, perché l'anniversario dell'apertura di quell'evento che fu fondamentale per l'aggiornamento della Chiesa Cattolica avvenne esattamente 50 anni fa, e Die Presse dedica un ampio dossier all'evento ricordando la battaglia che ci fu all'epoca tra quello che chiama l'alleanza renana, tra i cardinali tedeschi, belgi e olandesi in particolare, e invece i vescovi latini, che erano considerati, i cardinali latini che erano considerati più conservatori. Passiamo alla copertina successiva, Malta Independent, il secondo quotidiano più importante dell'isola, che dedica la prima pagina al vertice 5 più 5. È un vertice che si svolge regolarmente tra i dirigenti della riva sud, dei paesi della riva sud dell'Europa, quindi Portogallo, Spagna, Italia, Malta e Francia, e i dirigenti della riva nord dell'Africa, quindi Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania. E come dice il titolo, i leader del 5 più 5 vogliono una cooperazione più stretta, in particolare dopo la primavera araba. Cambiamo paese, andiamo in Germania, Die Zeit, grande settimanale di attualità e soprattutto culturale, uscito giovedì scorso, che dedica la copertina alla mia prima volta, il titolo che nel box rosa, la prima volta della Nuova Zelanda come ospite protagonista della Fiera del Libro di Francoforte, la più importante del mondo forse, che si apre il 10, e c'è un piccolo titolo nella colonna di destra che dice il debito rende ricchi. In effetti ricorda questo articolo che se la Germania in questo momento è prospera è anche grazie all'indebitamento dei tedeschi per acquistare dei beni, ma anche all'indebitamento di greci, spagnoli, italiani, portoghesi e altri cittadini dei paesi indebitati per acquistare beni tedeschi e quindi contribuire alla prosperità di quel paese. Un'altra prima pagina tedesca e chiudiamo il blocco, Die Welt, quotidiano piuttosto economico conservatore tedesco, che dedica invece il titolo di apertura a Steinbrück. Per Steinbrück è il candidato della SPD, dei socialdemocratici, per le elezioni dell'autunno prossimo come cancelliere, e Steinbrück rivelerà i suoi redditi extra parlamentari. C'è una polemica in corso in questo momento in Germania sulle attività e sul reddito dei politici al di fuori del loro stipendio da parlamentare, e per Steinbrück ha detto: io lo renderò pubblico, ha incaricato una commissione di esperti di fornire un rapporto sui suoi redditi entro 2 settimane. Il debito rende ricchi, chiedo se è vero, a Mariana Mazzucato, docente di economia di politiche scientifiche ed economiche all'Università del Sussex. Cosa sta succedendo? Lei si occupa, tu ti occupi, ci diamo del tuo, cosa abbiamo deciso di bilanci, di fondi stanziati per l'innovazione, almeno a parole. Abbiamo iniziato parlando di Erasmus, ci puoi fare un quadro della situazione? Sì, secondo me il problema nei paesi più, diciamo, deboli in questo momento in Europa non è che hanno speso troppo, è che hanno speso male, e non è una coincidenza, diciamo, che se uno per esempio fa il ratio di ricerca e sviluppo sul PIL, i paesi che Goldman Sachs ha chiamato i pigs, i maialetti, cioè Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, sono assolutamente i più bassi. E quindi, anche se è vero secondo me che la Germania ci ha guadagnato in un certo senso dall'euro, è anche vero che Germania negli ultimi anni ha anche molto investito su capitale umano, su ricerca e sviluppo, sul verde, che sarà il nuovo internet come fonte di crescita. E questo non si racconta abbastanza, perché la grande lezione, diciamo, di alcuni paesi forti come la Germania, ma anche la Cina e il Brasile oggi, che bisogna investire strategicamente, non basta solo fare strade, ponti, bisogna proprio avere una visione, e non c'è proprio una visione in Europa. È interessante che Jospin nel 97 aveva cercato di cambiare proprio il titolo, come si chiama il trattato di Maastricht, mettendoci dentro il nome crescita, perché sennò si chiamava solo il Maastricht Treaty di stabilità e coordinazione, e lui ha detto no, bisogna anche mettere crescita, e oggi l'abbiamo ritolto, cioè questo fiscal compact non è un compact, non è una visione su come bisogna crescere e spendere il budget europeo, è una visione su come bisogna tagliare, e nessun paese è mai cresciuto tagliando, e neanche solo con i structural reforms, bisogna investire. Ecco, in un articolo sul The Guardian tu fai un duro attacco appunto al concetto di austerità e come alternativa parli di investimento. Cosa si intende però per investimento oggi in Europa? Beh, diciamo anche che una delle mie critiche è anche su alcuni economisti tipo Krugman e Stiglitz, fanno benissimo a parlare per esempio del ruolo che lo Stato ha anticiclico, no? Perché sia le banche che le imprese investono e spendono troppo nel boom e troppo poco nel bust, e quindi il governo deve fare l'opposto. Invece oggi abbiamo una situazione dove il governo si sta comportando come un'impresa, sta tagliando nel momento della crisi e invece spende troppo nel boom. Quello che non hanno loro, e che tanti paesi non hanno, è una visione anche dello Stato durante tutto il ciclo. Quindi io in questi giorni sto parlando molto di Silicon Valley, perché è ancora un po' il modello in Europa, perché in Europa non riusciamo a produrre gli Amazon, i Facebook, i Google che hanno prodotto in America, e la risposta è stata: ah, perché noi abbiamo troppo Stato, bisogna quindi diventare più dinamici col venture capital. Invece Silicon Valley è proprio un esempio perfetto di dove lo Stato ha avuto un ruolo incredibilmente attivo. Ci sono tipo 15 agenzie diverse governative in America che hanno assolutamente fatto, diciamo, tutto il fondamento che dopo venture capital è entrato in Silicon Valley, 15 anni dopo. Ma questo richiede proprio una visione di cosa fa lo Stato per il capitalismo, no? E spesso le imprese entrano solo dopo. Quindi oggi il verde, la Cina, il Brasile, ma anche la Germania, la Danimarca, anche la Finlandia stanno spendendo molto lo Stato su wind, solar e biofuels, ma anche verde come una direzione attraverso cui trasformare tutti i settori. e le imprese stanno aspettando e poi entrano. Noi abbiamo bisogno di quello perché in Europa le imprese stanno spendendo poco, la Fiat non investe in nuovi motori, no? Quindi è anche molto importante un po' revert, diciamo, questa visione che c'è dello Stato come cosa burocratica, lenta, inerziale, e le imprese in qualche modo come seme del dinamismo. Tantissime imprese in italiane non sono dinamiche abbastanza e aspettano spesso solo di essere poi salvate attraverso diversi tipi di riforme e di aiuti. Michele, tu hai una Fiat o una Volkswagen? Io non ho nessuna macchina. Io mi sono iscritto al car sharing di Roma, che è una storia di successo. Si dice sempre in Italia, il tedesco medio, l'idea, niente funziona. Posso confermare per il bike sharing di Roma che non funziona affatto. Vedete i posteggi desolatamente vuoti, neanche una bicicletta, tutto rubato. Invece il car sharing funziona a meraviglia e sono molto felice di non avere la macchina, quindi col car sharing però guido naturalmente Fiat, è ovvio. Alla romana o guidi o alla tedesca? Ma a Roma si deve guidare alla romana, alla tedesca rimani fermo, proprio si incazzano, proprio non è possibile. Stiamo seguendo la rassegna stampa con tanti ospiti, entriamo subito nella quotidianità, ci porti verso il nord, vero Giampaolo? Sì, andiamo in Svezia con lo Svenska Dagbladet, che è un quotidiano, un grande quotidiano conservatore svedese. In prima pagina abbiamo un primo piano di quello che il quotidiano chiama il recordman borghese, ed è il primo ministro Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt è alla testa da ormai 6 anni, un record appunto per la Svezia, di una coalizione, come gli svedesi chiamano le coalizioni di destra borghese, cioè tra partiti liberali e conservatori, e quindi il quotidiano celebra questo evento. Ora possiamo passare alla copertina successiva, andiamo in Francia con Le Figaro, altro quotidiano conservatore, che divide la sua prima pagina in due parti. A sinistra abbiamo una cosa che molti lettori probabilmente conoscono, ed è una foto del museo del Louvre, che però come Versailles e come il centro Pompidou, altri due grandi musei francesi, anzi parigini, si ritrovano all'ora del rigore, perché nella finanziaria che il governo di Jean-Marc Ayrault ha presentato, sta presentando in questi giorni, ci sono tagli per 40 miliardi di euro, e la cultura, che è uno degli elementi di prestigio della Francia, anche la cultura subirà dei tagli che si ripercuoteranno in particolare sui musei. La parte destra invece della prima pagina è dedicata a questo movimento nuovo in Francia, che è dei cosiddetti, degli autodefiniti padroni piccioni. Un piccione in Francia è qualcuno che si fa fregare, ed è un movimento creato da in particolare padroni di start-up contro la decisione di Bercy. Bercy è il Ministero delle Finanze francese. Di tassare al 60% le rivendite delle start-up nella prossima finanziaria. Quindi i padroni hanno deciso di rivoltarsi, vedete la rivolta fiscale. Insomma, il titolo letteralmente è: Bercy, il Ministero delle Finanze, non ce la fa, non riesce come si fa con le bombe? Sì, per non farle esplodere, sì. Disinnesca. Non riesce a disinnescare la rivolta fiscale. Ok, hai usato la parola tagli, hai usato la parola startup e la parola piccione, quindi voglio tornare immediatamente dalla Mastucato, anche perché prima mi hai detto, poi però parliamo anche di esempi concreti, nel senso ci sono anche situazioni positive, ci puoi portare una ventata di ottimismo? Ottimismo? No. Parola grossa, scusami. Il budget europeo è un trillion, com'è? 1.000 miliardi, giusto? Sì, che è 1% del GDP, del PIL europeo, e si potrebbe usare molto più intelligentemente. Per esempio, ci sono quasi 400 miliardi di structural funds, di cui un terzo non sono stati usati. Si potrebbero usare oggi, senza aspettare il lungo periodo, di ricapitalizzare la banca di investimento europeo, che è un tool, come si dice, un meccanismo molto concreto per investire in modo produttivo nei paesi in questo momento deboli. Il problema è che siccome l'analisi è sbagliata, la Germania, ma non solo, sta dicendo che il problema in Grecia è che sono troppo pigri, che non lavorano abbastanza, non che non hanno investito abbastanza, c'è proprio un freno. E secondo me c'è proprio una schizofrenia, perché io lavoro molto con la Commissione Europea su tutto quello che è la ricerca e l'innovazione, ma poi c'è il gruppo dei ministri di finanza, ECFIN, che bloccano tutto. È la stessa cosa a livello del paese, non so, in Inghilterra io lavoro con Vince Cable e David Willetts sul piano industriale che ci dovrebbe essere, che non c'è. In Inghilterra però poi il Treasury, Osborne, ha tutta un'altra visione su quello che determina la crescita, e finché non portiamo assieme la, diciamo, la macroeconomia, come i ministri finanziari stanno dicendo che bisogna crescere, con i piani industriali, è tutto un po' un spreco di tempo, e bisogna però parlare di nuovo di cose concrete. Oggi la Banca Europea di Investimento deve poter investire anticiclicamente, però con meccanismi diretti, senza andare attraverso le banche private, che alla fine non vogliono investire in progetti che durano più di 3-5 anni. E non si può aspettare che la Grecia oggi cofinanzia questi investimenti, invece la Germania vuole che la Grecia ci metta, diciamo, soldi. Invece si potrebbero usare i ECB bonds, cioè i bonds della banca centrale, per cofinanziare i EIB bonds, i bonds della banca di investimento. Oppure, insomma, ci sono tante idee, ma il punto è che bisogna pensare in quel modo lì, come release, come si dice release? Unleash? Come si dice? Sprigionare gli investimenti, perché oggigiorno, non so, anche in America ci sono 1.3 trilioni, miliardi che il privato non spende, sono sotto i cuscini. Stavo pensando che io da bambino mai avrei giocato a Monopoli con te, nel senso che sarebbe stata sicuramente una partita persa. Grazie Mariana. E invece facciamo un salto a Bruxelles, lo facciamo attraverso un documentario che è stato presentato proprio qui al Festival Internazionale. People don't understand what the European Union is. They don't understand how it's governed. They don't know who are the people who are running it. But they know that they weren't chosen by the people. The Brussels Business, ed è stato realizzato da Frederick Moser, non da solo, poi ci dirà con chi, produttore, direttore della fotografia e regista austriaco, vive tra Vienna e Bressanone, ed è qua con noi. Ciao Frederick. Ciao. No, non sei l'unico autore, vero? Se capito. Ho fatto il film insieme a Mathieu Lietin, che è un politologo belga che ha ricercato per il suo PhD nell'European University Institute, che è un'istituzione di ricerca d'eccellenza a livello europeo, a Fiesole, proprio locato lì, sul lobbyismo e sull'influenza degli attori privati sulla politica europea. Questo film è stato presentato ieri e verrà proposto anche domani alle ore 12 presso il cinema Boldini. Il tuo è un documentario, è un film di denuncia, nel senso hai voluto vedere, raccontare il marcio che c'è a Bruxelles, o è un approccio diverso, nel senso hai tentato di fotografare una realtà dove c'è anche qualcosa di non proprio trasparente? Ma il film, col film abbiamo voluto di aprire una finestra a un mondo che di solito non si vede nelle TV, nei telegiornali, anche la stampa non la riporta tanto, che è chi sono gli operatori dietro le quinte a Bruxelles, cosa c'è dietro la facciata che conosciamo, cosa c'è in quei palazzi che ci fanno vedere quando fanno i servizi televisivi. E il mondo che c'è è il mondo di 15.000 minimo lobbyisti che cercano di rappresentare diversi interessi, soprattutto interessi industriali dell'economia, ma anche del settore delle regioni, anche delle ONG, per influenzare la politica europea. Ecco, la parola lobby e lobbista ha spesso un'accezione negativa. Abbiamo una piccola storietta attaccata a questa idea che l'lobbismo sia qualcosa di sporco. Praticamente abbiamo diversi protagonisti nel film e uno dei nostri protagonisti si chiama Pascal Kernays ed è il Mr. Services, cioè il signore dei servizi europei, perché rappresenta intorno al 50% del PIL europeo, grandi banchi, strutture finanziarie, la City di Londra, però poi anche tutti i grandi telecom europei. E lui sta facendo la pressione per l'apertura dei mercati a livello internazionale, negozia anche intorno all'Organizzazione Mondiale di Commercio e così lui è una persona nell'ombra, però abbastanza, con abbastanza influenza. Chi si è arrabbiato fino ad ora guardando il tuo film? Io direi gli unici che si sono arrabbiati sono stati i giornalisti di investigazione, perché il film non presenta il grande scandalo, perché non c'è il scandalo. Il film fa proprio un ritratto del potere che c'è dietro le quinte e non è che siamo seguito un particolare caso di corruzione e così. Perché volevamo far vedere cosa è la vita normale, come pensa questa gente che sta operando lì nell'ombra, in questa zona grigia che di solito non si dà tanta attenzione. E se posso fare il paragone con l'Italia, se io metto in gioco la parola Montezemolo, tutti sanno che questo che Montezemolo è un personaggio politico, ma non è un politico, però comunque con tanta influenza politica. Se io metto il nome di Etienne Davignon, nessuno si accorge chi è, o Peter Sutherland, nessuno lo sa, però nell'ambito europeo questi sono i Montezemolo, questi sono i personaggi che dietro le quinte hanno tantissima influenza, perché sono presenti nel mondo politico come anche nel mondo delle grandi imprese, delle multinazionali. Angel, tu hai visto il film, ieri ne avete anche dibattuto, è una fotografia reale quella che viene presentata, in cui che condividi, tu che conosci comunque il palazzo meglio di noi? Prevaleva molto l'aspetto notturno di Bruxelles, anche se le strade poi di notte io le ho viste un po' più popolate, invece lì nel film erano tutte deserte, infatti sembrava una situazione un po' di isolamento, insomma. Sicuramente suggestiva la rappresentazione. Quello che è sicuramente importante anche che ci sia diciamo attenzione, che si attiri l'attenzione del pubblico anche a questi aspetti, ma questi aspetti non sono diciamo da ritenere negativi. La rappresentanza degli interessi non è un problema, l'esistenza della rappresentanza degli interessi non è un problema, è anche una parte essenziale della democrazia postmoderna in cui viviamo. Il problema sono le regole e la trasparenza, il problema è anche la definizione, perché se tu devi applicare delle regole ovviamente devi dare anche una definizione di a chi vanno applicate queste regole. Se la signora Rossi di Siena, per esempio, chiama la commissione e dice non intervenite su quello che ho sentito per esempio al supermercato, lei è una lobbista? Lei è una rappresentante di interessi? Anche questo bisogna porselo. Una cosa importante, la rappresentanza degli interessi, qui stiamo parlando perché nella definizione che ha dato la Commissione e il Parlamento europeo, che da 2011 hanno anche un registro di trasparenza unico per questo tipo di attori, la definizione è volutamente ampia perché comprende non solo i law firms o non solo le rappresentanze, diciamo i lobbyist, quelli nel senso stretto, ma contengono anche i think tank, contengono anche le organizzazioni non governative. Quindi la cosa importante è che un esercizio trasparente e regolamentato, laddove le regole sono conosciute, aiuta anche a prendere decisioni, aiuta a prendere decisioni buone, esercizio della democrazia positiva. E tra l'altro ricordo che le istituzioni europee sono tenute anche ad ascoltare le istanze che vengono dalla società, che vengono dalle rappresentanze. C'è un articolo nel trattato, l'articolo 11, che obbliga le istituzioni ad ascoltare tutte le istanze, rispondere quando è richiesta una risposta, e addirittura per la Commissione, prima di presentare delle proposte, anche a svolgere delle ampie consultazioni. Grazie. Frederick? Diciamo il problema che c'è a Bruxelles è che differentemente dai stati membri dove c'è un tipo di patto sociale in tutti i paesi, a Bruxelles c'è un grande sbilancio di importanza e di influenza tra i rappresentanti delle grandi industrie rispetto ai sindacati, rispetto alle organizzazioni dei consumatori. E ci è stato eseguito una ricerca da un ricercatore tedesco mezz'anno fa, e i numeri dei rappresentanti di interessi industriali a quelli sindacali, e la ratio è 50-1, e questo è completamente diverso di quello che è la ratio a un livello nazionale. E l'altra cosa è che aspetta, perché abbiamo, sì, il tempo che sta correndo a Angel. Questo ci riporta al problema della definizione, perché le rappresentanze sindacali nell'Unione Europea partecipano a una specie di tripartizione, ovvero di un dialogo sociale con le istituzioni europee. Loro, visto che sono federati tutti i sindacati europei partecipano a un'organizzazione ombrello, non sono tenuti per esempio a iscriversi in questo registro, perché sono appunto un partner riconosciuto e un partner trasparente. Adesso ci stiamo addentrando in quella parte dell'Europa che è così ostica, così complicata, che è difficile anche rendere calda. E al di là delle strade deserte, credo che comunque il documentario di Frederick dia così almeno una visione, un punto di vista. E ve lo ricordo, domani alle 12 presso il cinema Boldini, Brussels Business. John Foot, il calcio, che è questa tua grande passione, tu hai raccontato l'Italia attraverso il calcio e viceversa, hai raccontato anche il calcio attraverso il nostro paese, e proprio qui a Ferrara parlerai di questo, un calcio in crisi, perché è una nazione in crisi? Un calcio in crisi come l'economia in generale, come con i debiti, con i scandali, c'è stato l'ultimo anno uno scandalo straordinario internazionale con soldi che vieni da Singapore, che finanzia partite truccate in Grecia, in Italia, in partite anche internazionali. Quindi il calcio fa parte del sistema globale, ha un'influenza fortissima sulla politica, sul consenso che c'è in Italia. Sappiamo benissimo che è stato Berlusconi e il calcio sono stati due cose che sono viaggiati insieme con la televisione, e quindi è un sistema intero in crisi che va avanti lo stesso, come un animale che è morto ma continua a camminare. E quindi, e poi con piogge di soldi in questi tempi, mi sembra quasi di pessimo gusto. E questo incontro è importante perché è la prima volta alla festa internazionale che si parla di sport in questo senso molto serio, molto con esperti come Simon Cooper, che è uno dei più grandi scrittori di sport, ma non nel sport nel senso puro, ma sport in relazione con la storia, con l'economia, con la statistica e così via. Quindi credo che sarà una cosa molto interessante. Alle 14 presso il cinema Apollo, e chiudiamo il nostro viaggio in Europa attraverso le prime pagine. Gianpaolo Accardo, dove andiamo? Sì, andiamo nel Regno Unito, il paese di John Foot, con il Financial Times Weekend, il grande quotidiano della City, il cui titolo è dedicato al premier britannico David Cameron, che viene spinto in un certo senso, sul quale viene fatta pressione da parte essenzialmente di industriali e conservatori per mettere il suo veto sulla fusione tra EADS, il consorzio aeronautico e di difesa europeo, e British Aerospace che invece è un'impresa britannica. La fusione tra i due dovrebbe dar luogo al vero concorrente europeo della Boeing in materia di difesa. Rimaniamo nel Regno Unito con la copertina, la prima pagina dell'Independent, un quotidiano piuttosto di sinistra britannico, che titola sui padroni del business britannico, che dice: dunque, i padroni del business, stiamo perdendo fiducia nei Tories. I business chief sono anche soprannominati fat cats, cioè i gatti grassi, quelli che con la crisi invece hanno fatto un sacco di soldi. E secondo un sondaggio che pubblica The Independent, il loro tasso di fiducia nei conservatori britannici è sceso in poco più di un anno dal 77 al 55%, e la loro fiducia nel ministro delle finanze britannico Osborne è sceso dal 63% al 43%, quindi insomma il governo conservatore britannico sembra non avere più tanto il favore del suo primo finanziatore, che è l'industria britannica. Chiudiamo rapidamente con un paese che non è europeo secondo alcuni, ma secondo me sì, è la Turchia. Hürriyet Daily News, la versione inglese del quotidiano turco Hürriyet, che titola sulla paura che ha portato la calma nelle due città sulla frontiera turco-siriana. Questa settimana sappiamo che dei razzi sparati, dei tiri di mortaio partiti dalla Siria e atterrati in Turchia hanno provocato 5 morti a Kaçkale, e la Turchia in risposta ha lanciato dei tiri di mortaio sulla Siria. Adesso la situazione sembra più tranquilla, ma comunque la tensione è sempre viva tra i due paesi. Grazie davvero. Concludendo, Michael Brown, ieri hai partecipato anche a un incontro sulle seconde generazioni in Europa, una risorsa? Sicuramente, no? Era un documentario fatto da un ragazzo giovane italo-ghanese che ha la cittadinanza, avendo il papà, la mamma italiana, se ricordo bene, ma lui ha intervistato un sacco di ragazzi che crescono fra Bergamo, Napoli, Roma, eccetera. 900.000 ragazzi oggi in Italia, dagli 0 ai 25 anni, che non hanno la cittadinanza, e ha sviluppato in modo molto bello questo grande scandalo, questo sopruso che vivono questi ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti, però gli si nega l'essere italiani, con il fatto che devono fare la fila la mattina presto alla questura. Una ragazza raccontava lo shock quando le hanno prese le impronte digitali quando compiva i 18 anni, e devo dire, c'era una frase in quel film detta da un ragazzo che diceva: l'Italia rischia. Questa frase mi è piaciuta moltissimo, perché l'Italia che spreca una grande occasione se mantiene la legge così com'è, invece di inglobare questi ragazzi, gli dice: non siete dei nostri. Mentre chiudiamo ridendo, o tentiamo di farlo, con Stefania Mascetti di Internazionale, perché domani alle 14 lo Stato dell'Unione a Vignette, questo incontro in occasione anche del concorso che viene proposto ogni anno ormai dalla seconda edizione. Si può ridere di questa Europa attraverso le vignette? Allora, questa è la sfida, diciamo, lanciata da Internazionale, dalla rappresentanza italiana della Commissione Europea, che insieme abbiamo voluto vedere se era possibile effettivamente ridere d'Europa. Appunto, il concorso è la seconda edizione, la prima edizione speriamo di esserci riusciti, nella seconda devo dire che la crisi ha dato una grande mano, perché molto, un linguaggio europeo che non era molto nel linguaggio comune è improvvisamente entrato di prepotenza nei nostri linguaggi, tra spread, Angela Merkel. All'interno del chiostro adesso continueremo un po' di rassegna stampa e vedremo queste vignette. Me ne fai vedere una? Una, diciamo, forse potremmo far vedere quelli stranieri, potremmo far vedere. Allora, questo qui è di un giornalista danese, appunto Olympic Fire, è la fiamma olimpica che brucia l'euro, diciamo, un po' l'immagine della crisi greca. Ok, e su questa immagine chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Grazie davvero a tutti gli ospiti, non sto a citarvi perché c'è pochissimo tempo. Grazie al pubblico, grazie al Festival di Internazionale. Qui la festa continua. Grazie ancora, sabato prossimo.